la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui Oscar Giannino vi saluta in questo primo di settembre in diretta agli studi di Radio 24 di Milano. E prima di dirvi di cosa ci occupiamo oggi, comunque ci occupiamo di comuni, dopo che ieri ci siamo occupati di regioni, alcune parole obbligate su quanto è avvenuto stamattina. No, non stiamo parlando delle notizie dei mercati finanziari che avete sentito oggi nella radio e che poi sentirete in approfondimento con Sebastiano Focus Economia. I mercati finanziari vanno male perché c'è stato il rilascio dei dati dell'indice PMI degli acquisti del manifatturiero cinese, che aggrava la contrazione nell'ultimo mese, e quindi male Shanghai, male i mercati in tutto il mondo. Ma parliamo invece della nostra Italia, perché stamattina l'Istat ha fatto tre release di dati, ha rilasciato quindi gli aggiornamenti di tre dati, e uno di questi, sono tutti importanti come vedremo perché meritano qualche parola di commento, ma uno ci investe direttamente, perché investe direttamente la nostra sigla, cioè quella che avete appena sentita, quella dei Doors, This is the End. Proprio come vi dicevo ieri, a ripresa del ciclo di trasmissione dopo la pausa estiva, l'impegno tra me e voi è sempre stato quello, da mesi dichiarato, ricordato anche ieri, lo cambiamo, come molti di voi chiedevano, perché per alcuni porta un po' sfiga, insomma, questo This is the End, quando ci sono almeno due trimestri di crescita congiunturale del PIL a più 0,3 ciascuno. Non eravamo a questo con la prima stima del secondo trimestre che c'è stata ad agosto da parte dell'Istat, perché vi ricordo che il primo trimestre era più 0,3, il secondo più 0,2, ma stamattina, colpo di scena, e per fortuna, perché almeno finalmente siamo in presenza di dati che migliorano e non che peggiorano, sia pur di poco, ma migliorano, c'è stata il rilascio definitivo delle stime da parte dell'Istat della crescita, delle stime di crescita del primo e secondo trimestre. E la condizione che avevamo tra me e voi si è adempiuta, perché il primo trimestre viene corretto verso l'alto come andamento tendenziale congiunturale, perdonatemi, cioè sul trimestre precedente, del PIL da più 0,3 a più 0,4, e il secondo passa da più 0,2, che era la prima stima rilasciata ad agosto, a più 0,3. E quindi su base tendenziale anno a più 0,6, e quindi nella prima metà dell'anno abbiamo già accumulato una crescita che è vicina a quell'obiettivo di più 0,7% annuo, che era la stima media non solo del governo ma di molti osservatori. Quindi siamo in presenza di una primi segni di un rafforzamento di una crescita che potrebbe arrivare all'1% annuo. Quindi bisogna cambiarla sta sigla. E allora facciamo una cosa, io l'ho già scritto su Facebook, sentiamo per un paio di giorni, entro giovedì, chiunque di voi abbia delle proposte su quale è la sigla secondo voi più adatta per interpretare lo spirito di questa problematica inizio di ripresa italiana, e dall'altra anche lo spirito della trasmissione, che è quello di non avere né pregiudizi negativi né di eccessivo ottimismo, ma insomma che vuole vedere le cose come stanno rispetto ai grandi gap accumulati nel nostro paese. Quindi mandate le vostre proposte post o sulla mia pagina Facebook o su quella mia lavagna personale su Facebook, ma comunque soprattutto la versione di Oscar @radio24.it, e domani facciamo un primo commento e giovedì decideremo e venerdì avremo una nuova sigla. Vediamo un pochino qual è il vostro polso su questi dati. Ma la cosa più importante sono le altre due rilasci di dati da parte dell'Istat questa mattina, che riguardano il mercato del lavoro. Abbiamo avuto la revisione dei dati del lavoro sui primi due trimestri, cioè a fine giugno, e poi la prima stima dell'andamento dell'occupazione, disoccupazione inattivi per il mese di luglio. Anche qua siamo in presenza di notizie moderatamente positive, però non negative, e che quindi non vanno negate ma vanno capite bene. Cioè nella stima, che è una stima questa volta rivista, non la prima stima, dei primi due trimestri, noi abbiamo, ed è positivo, un aumento significativo dell'occupazione su base annua, cioè su fine giugno del 2014, con più 180.000 occupati a fine giugno rispetto a fine giugno 2014. E di questi più 180.000, altra cosa di un certo peso è che 120.000 sono al sud rispetto al nord. La cosa poi che ha tra tutti gli altri dati un certo peso è però che questi 180.000 occupati in più sono, e quindi questo aumento del tasso di occupazione, che sale al 56%, dal 55% rotti dove era prima, ricordiamoci la Germania sta al 67% e così via, ma insomma l'aumento degli occupati però si concentra soprattutto in chi ha più di 50 anni. Tant'è che l'Istat dice, anzi l'occupazione nella fascia da 15-30 scende del 4% in un anno e nella fascia 30-40 anni scende di quasi il 2%, l'1,8%, mentre invece aumenta di quasi il 6%, più 5-8% nella fascia degli over 50 anni. L'Istat stesso dice, è un effetto soprattutto della riforma Fornero, cioè quando il mercato del lavoro riparte il problema è quello di dare un lavoro a chi ha un orizzonte molto lungo di fronte a sé per andare in pensione. E qui l'interpretazione si divide, perché molti di voi diranno motivo per il quale bisogna riabbassare l'età pensionistica, la riforma Fornero, e invece si potrebbe anche argomentare al contrario, perché il problema è che le aziende, quando riparte la domanda di lavoro, come vedete si concentrano, e finalmente, perché non capitava così in Italia, su chi ha già degli skills, delle capacità già formate, cioè sugli over 50 anni. È comunque una cosa positiva, certo non è molto positivo però per i giovani. Altra cosa, sull'anno diminuiscono di parecchio gli inattivi, cioè quelli che non cercano lavoro e non sono occupati, cioè diminuiscono in un anno, a fine giugno di quest'anno, fine giugno 2014, di 279.000 unità. Però poi se andiamo a vedere i dati del mese successivo, quelli di luglio, e qui è solo una prima stima, ecco che gli inattivi a luglio rispetto a giugno aumentano di 99.000 unità. E cioè la situazione di inattivi peggiora di nuovo brutalmente rispetto ai meno 279.000 inattivi accumulati in un anno. I dati di luglio confermano che gli occupati sono soprattutto gli over 50 anni, e comunque a fine luglio, prima stima Istat, gli occupati rispetto a luglio del 2014 erano più 235.000. Comunque gli occupati aumentano. Se andiamo a vedere, e qui finisce il mio commento, la composizione rispetto alla durata del tempo dei rapporti, non il tipo di contratti, se a tutele crescenti o meno, ma se impieghi part time o a tempo pieno, aumenta sì il tempo pieno, cioè di quei 180.000 in più in un anno a fine giugno, circa 120.000 sono a tempo pieno, aumentano del più 0,8%, però aumentano di più quelli part time, che aumentano dell'1% rispetto al più 0,8%. E che cosa vuol dire questo? L'Istat aggiunge dicendo i 7 decimi di questo aumento dei rapporti part time sono part time di gente che non vorrebbe il part time, cioè le imprese ancora faticano molto a crederci a questa ripresa, tanto è vero che in questa stima verso l'alto del PIL del primo e secondo trimestre la componente degli investimenti delle imprese resta molto molto molto bassa. Ultima cosa, per la prima volta in presenza di una crisi che andava avanti da 19 trimestri c'è un più 2,3% degli occupati nell'edilizia. Naturalmente stiamo partendo da un buco, eravamo arrivati sottoterra alla fossa delle Marianne con gli occupati dell'edilizia, però anche lì qualche primo segno c'è. Speriamo in bene, per così dire. Quando poi ripartiremo con la versione di Oscar tra due sabati, sentiremo anche Mario Seminario e così via. Domani occhio che i giornali italiani si divideranno in chi tifa per iperottimismo e in chi vede solo gli aspetti negativi. Secondo me bisogna avere un aspetto diverso, bisogna guardare questi dati finalmente con un po' di speranza in più. Attenzione però che il più di quei 180.000 occupati a fine giugno di quest'anno rispetto al fine giugno del 2014, il più veniva entro la fine dell'anno scorso, quindi gli effetti del Jobs Act sono ancora tutti da vedere, tranne una cosa incontestabile, che col Jobs Act cresce la percentuale dei rapporti definiti a tutela crescente rispetto agli altri, e questo è innegabile. Però ricordate anche quanto ci costa la decontribuzione. Allora andiamo all'argomento del giorno. Se volete intervenire potete telefonare sia sulla sigla che su queste cose dell'Istat, quanto sperate che questo sia l'inizio di una svolta destinata a rafforzarsi oppure no. Vi ho detto che il mese di luglio qualche primo segnale di tossicchiamento ce l'ha già, ovviamente su agosto conterà anche il terremoto dei mercati finanziari dalla Cina, però speriamo, per così dire. Allora, di cosa parliamo oggi? Ieri abbiamo visto il problema della leggina pronta per il buco di 20 miliardi per le risorse trasferite alle regioni per pagare i loro debiti commerciali e che le regioni hanno utilizzato anche per fare altre spese, e abbiamo capito che verrà sanato ma senza distinguere tra le regioni che hanno una capacità di spesa trasparente più efficiente e altre invece no. E oggi ci occupiamo dei comuni, perché sul Corriere della Sera è uscito ieri una pagina di dati che fanno molto riflettere su come indietro siamo rispetto alla mancanza di trasparenza di che cosa i comuni spendono davvero, in che condizioni, con quali condizioni di efficienza i nostri 8100 comuni, quando si tratta della spesa in welfare, cioè dell'assistenza a chi ha meno reddito e così via, quali sono i criteri utilizzati. Insomma, un paese con 8100 comuni di cui praticamente la metà, cioè 4000, hanno meno di 2000 abitanti, quindi anche poche risorse per poter pensare a essere tutti collegati in banche dati con l'INPS. Però l'effetto è veramente un effetto patchwork. Anche di questo, ripetiamolo, la riforma della Costituzione che è in discussione e che riprenderà la prossima settimana, sapete con quali problematiche tra minoranza PD e maggioranza del PD sul Senato elettivo o meno, diciamo, non interviene con grandi cambiamenti. Noi la diminuzione del numero di comuni per popolazione residente non l'avremo. C'è un appello ai liberi consorzi dei comuni, abbiamo parlato più volte di comuni in cui le giunte propongono ai loro cittadini di fare il referendum e di unirsi. Cosa diversa sarebbe una norma ordinamentale che capisse che un certo numero minimo di abitanti non c'è proprio l'ambiente minimo di ottimalità economica e finanziaria per poter gestire e offrire i servizi. E con noi l'autore di questa bella pagina di approfondimento su questo aspetto, che è quello che riguarda poi la vita di tutti noi, perché il comune è quello che è la prima frontiera pubblica a cui noi chiediamo i servizi, no? Ed è la prima frontiera pubblica a cui i tagli, come abbiamo visto quelli delle regioni, ancora di più coi comuni del governo centrale in questi anni, sono poi trasferiti in aumenti molto molto a tripla cifra del totale dell'imposizione fiscale locale. Allora, ringrazio di essere con noi Alberto Brambilla, che è il presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali, che insegna all'Università Cattaneo di Castellanza. Buon pomeriggio, professor Brambilla. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, il primo aspetto paradossale è quello che non c'è una rete con criteri contabili comuni che ci faccia capire davvero i comuni quanto spendono per l'assistenza al welfare, è vero? E in effetti, quando noi facciamo la valutazione della spesa complessiva di welfare, quindi pensioni, assistenza, sanità, a livello nazionale possiamo contabilizzare soltanto i macrodati, tant'è che anche a livello di Ragioneria Generale dello Stato si stima che il welfare dei comuni, esclusa la casa, sia in un intorno dello 0,6-0,7% del PIL, quindi per intenderci sui 7-8 miliardi. Però non abbiamo una documentazione chiara, per il semplice motivo che non ci sono centri di costo. Molti comuni, anche piuttosto grossi, per esempio le spese per gli assistenti sociali sono messi sotto la voce personale, le auto sotto la voce parco auto e il materiale che viene utilizzato come materiale di consumo. Quindi non abbiamo la sensazione. Noi pensiamo, in base ai dati delle ex case popolari, che sulla scorta di quello che è la normativa europea, quindi il SESPROS, la contabilità europea, che noi si faccia un circa 0,8% sulla casa e uno 0,7-0,8% sui comuni. Però manca questa cosa qua. Oltretutto manca la notizia, ovviamente, di contabilità, ma poi manca anche la notizia di ritorno ai cittadini, per esempio su quale tipologia di servizi hanno usufruito nell'anno, tipicamente i servizi sanitari. Quindi è un paese un po' complicato e un po', come dire, burocratizzato dal punto di vista proprio della struttura: 8100 comuni, regioni che sono meno di un quartiere di Milano o di Roma, andrebbe un pochettino risistemata se vogliamo avere un welfare efficiente. Ma soprattutto in questo modo e con tipologie di criteri di concessioni di servizi nel campo del welfare, che inevitabilmente dipendono più dai margini di spesa possibili ai comuni che a criteri generali condivisi, non si ha neanche la possibilità di capire noi veramente a chi li diamo questi servizi. Cioè c'è un problema di efficienza di queste risorse rispetto al fatto che restiamo poi scoperti sulla povertà e finiamo magari per darli a molti o che non sono in regola con le tasse perché truffano o perché sono più ceto medio che ceti bassi. In realtà qual è il problema? Che cosa impedisce a ogni comune italiano di avere un terminale collegato a una banca dati dell'INPS, come scrive lei, per avere un registro generale dei criteri che ci faccia capire come li spendiamo? Perché stiamo parlando del 30% del PIL di spesa sociale nel nostro paese, non poca roba per così dire. Costa così tanto per ogni comune un terminale collegato all'INPS per veicolare i dati e i criteri con cui si danno i servizi? E lei prima nella sua prefazione, la sua premessa, ha fatto un'osservazione molto giusta, cioè un conto è dire ai comuni ma se volete mettetevi assieme, insomma fate un po'. E un conto è invece, come ha detto lei, no, ci vuole una norma, a parte che ci vorrebbe una revisione del titolo quinto della Costituzione, perché così com'è funziona molto poco. Però almeno una norma che dica ai comuni, sai che ti dico, se tu non diventi un pochettino più efficiente e sotto una certa dimensione non lo puoi essere, io non ti do i trasferimenti. La stessa cosa è con l'INPS. L'INPS tutti gli anni invita tutti i comuni a collegarsi almeno con le anagrafi per sapere quando un cittadino muore ai fini della sistemazione della pratica pensionistica, eccetera, e c'è una grandissima parte di comuni che dopo 12 anni da quando è partito il primo la prima richiesta di invio non li hanno ancora mandati, tant'è che spesso, soprattutto quando il pensionato il deceduto aveva dato una delega precedente a un ufficio postale, quindi non c'è da chiudere un conto corrente immediato, per cui lì è un pochettino più difficile. Ecco, spesso si pagano le pensioni per qualche mese a persone che poi quando gli si chiede di nuovo i soldi non li hanno, e quindi questo semplicemente perché non c'è questo collegamento. Ora, ma lei ci vuole dire quindi, no, aspetti, perché questa è una cosa che non mi era chiara. Anche per i meri servizi di anagrafe demografica non c'è un obbligo ordinamentale vigente per i comuni di essere collegati con l'INPS per quello che riguarda eccetera? È un invito che l'INPS fa da 12 anni a cui i comuni sono liberi o meno di aderire? È un invito, nel senso che non c'è una norma che dica a un comune o un'anagrafe tu sei obbligato se vuoi una serie. Peraltro sarebbe anche un vantaggio per i comuni. Ma perché... Certo. Avrebbero comunque qualche informazione in più sul soggetto che vanno a assistere, perché l'INPS ha una banca dati, gli potrebbe dire guarda questo, gli do una pensione sociale, più gli do la social card, certo, più gli do una cosa, quindi tu eventualmente... Il comune avrebbe molti criteri in più per valutare, rispetto a risorse limitate come sono quelle dei comuni, a chi vale la pena dare e a chi invece magari, no guarda, qui dalla banca dell'INPS risulta che hai avuto questo, questo e questo, dobbiamo dare altri che non hanno avuto come te, giusto, no? Così, quindi dovrebbe esserci questo... Ma com'è possibile che nei decenni... queste cose siano rimaste nell'ambito di una facoltà e di un invito e di un obbligo? Perché è elementare, agli occhi di chiunque è elementare, e tutti si aspetterebbero che ci sia questo obbligo. In realtà purtroppo non so per quali motivi, probabilmente la politica non ha voluto mettere obblighi, come del resto non l'ha fatto per l'accorpamento dei comuni, per farli consorziare su alcuni servizi. Cioè l'altro caso eclatante è un comprensorio da 60.000 abitanti con in media sono 12 comuni, ogni comune mediamente ha 2, 3, 4 vigili, in più su questo territorio c'è la caserma dei carabinieri, spesso la caserma della polizia della strada, e noi non troviamo nessuno a fare sicurezza sulla strada oltre una certa ora o pochissima roba. In realtà se questi comuni mettessero assieme i loro vigili in una centrale dove il personale ausiliario sono dei dipendenti normali, Allora, prima osservazione mia, non la voglio implicare. È vero che i comuni si lamentano tanto dei tagli, ma è anche vero che la politica non ha mai assunto norme cogenti per farli mettere insieme, per obbligarli a condividere le banche dati, comunicando i dati all'INPS e così via, perché così ci si tiene le mani più libere a livello locale. E così a livello locale si è più liberi di dire a te do, a te no, a te do, a te no, e naturalmente così ci perdiamo sia una contabilità attendibile di quanto spendiamo davvero in servizi, ma soprattutto il criterio di a chi li stiamo dando, quindi diventa ancora più inefficiente questo sistema per tenersi le mani libere a livello locale, i partiti e la politica. Torniamo tra un minuto, le informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:50:47 secondi. Già parecchi di voi mandano gli sms qui al 3492386666. C'è chi dice tieni comunque i DORS perché guarda che l'onda lunga cinese arriverà. Credo anch'io che il fenomeno cinese avrà un certo impatto non solo sui mercati finanziari ma sulle cose reali, sull'andamento del commercio mondiale e così via. Quindi la mia opinione è che poi ci sarà una canzone che non può essere troppo ottimista. Altri per esempio propongono Money for Nothing dei Dire Straits, che tra l'altro mi piace tantissimo. Vediamo, ci sono altre. Poi devo ringraziare quelli come Maria e altri ascoltatori che si ricordano pure il mio buon compleanno di oggi. Vabbè, sì, questo non può interessare tutto il pubblico, ma io vi devo ringraziare a questo punto. Allora, abbiamo con noi il professor Alberto Brambilla, col quale stiamo vedendo questa cosa ricca di sorpresa per chi non è un esperto del nostro ordinamento dei rapporti tra centro e periferia. Si scopre che i comuni non è che sono obbligati a avere un terminale collegato all'INPS per consultare gli estremi delle persone che chiedono ai comuni servizi sociali e per vedere un pochino di operare quindi nell'offerta di servizi con criteri comuni. No, è un invito che l'INPS fa e moltissimi comuni non lo fanno, non ne comunicano i dati, e noi quindi in realtà c'è una stima di quello che spendiamo nel welfare, nelle autonomie, ma di preciso non lo sappiamo e soprattutto non sappiamo a chi li diamo. La politica non ha voluto mettere norme secche sugli ambiti minimali di residenti e popolazione per i comuni, per i consorzi di comuni e così via. È tutto affidato a uno spirito che è quello localmente delle mani libere della politica. Resta che questi ambiti non ottimali significano spreco, inefficienza e mancanza di comparazione su chi è più efficiente o meno efficiente. Poi i dati si vedono nel PIL, ovviamente, nel reddito e nel reddito pro capite. Sentiamo qualche telefonata e poi torniamo al nostro ospite per fargli il commentare. Cominciamo con Paolo che ci chiama da Savona. Prego Paolo. Buongiorno e auguri innanzitutto. Grazie. Dunque, io chiamo perché la pensavo come lei fino a che non ho fatto consigliere comunale in un piccolissimo comune. Quanti abitanti? 500, veramente di quelli da togliere. Saremmo stati obbligati a consonziare. No, aspetti, lei ha detto 500 da togliere, ma informiamo i nostri ascoltatori, numeri sempre di Alberto Brambilla, che degli 8100 comuni i primi 1000 hanno in media meno di 300 abitanti, ecco, e i secondi 1000, cioè 2000 su 8100, non arrivano in media a 550 abitanti. Quindi per essere chiari, il suo è piccolo ma non piccolissimo, perché rientra in un quarto dei comuni italiani. Allora, noi la sua esperienza obbligati a entrare in Rivieracqua, che è la partecipata dei comuni della provincia di Imperia. Rivieracqua, gestendo tre comuni, ha 10 milioni di euro di debito. Nel nostro piccolo comune l'acquedotto è ad esempio una risorsa, sì, perché noi il consigliere va a aprirsi l'acqua quando è rotta, cioè la paura di mettere un comune come il nostro insieme a Imperia è che noi quando avremo i tubi rotti, faccio l'esempio dell'acqua, non arriveranno mai. Non arriveranno mai da voi. Quindi lei dice, se ci fosse l'obbligo di mettersi insieme fa prevalere nella media chi offre il peggior servizio, che accolla i debiti e le inefficienze agli altri. Primo criterio, perché questo lei ha ragionissima, questo dovrebbe essere uno dei criteri con cui la politica dice e naturalmente si fa, ma la si fa verso il meglio, non il peggio. Mettiamolo lì e sentiamo poi Brambilla. Sentiamo Stefano che ci chiama da Treviso. Prego Stefano. Sì, buongiorno Oscar, complimenti per la trasmissione. Sì, io volevo dare un suggerimento per la nuova sigla The Policy of Truth dei Simple Minds. Beh, bellissima canzone anche quella, Policy of Truth, che tra l'altro va bene per l'Italia, questa cioè la scriviamo e la mettiamo nel nostro. Grazie a Stefano per questa proposta. E ci chiama poi Fenu da Roma, prego. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io telefono perché ho sentito un'affermazione che vorrei rettificare. Io sì, sono adesso in pensione, ma sono il dirigente dell'Agenzia delle Entrate che ha seguito il progetto SIATEL, cioè il progetto di collegamento degli 8.100 comuni italiani. Grazie della chiamata. Con l'anagrafe tributaria. Sì. Quindi volevo precisare che tutti i comuni italiani sono collegati con l'anagrafe tributaria, con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate. Aspetti. Allora, lei dice anche con l'INPS e il professor Brambilla dice no, con l'INPS no. Allora, posso chiedere, lei naturalmente avendo fatto dirigente eccetera eccetera dice che la cosa vale anche per i dati dell'INPS, quindi per l'offerta dei servizi sociali? Sì. Assolutamente sì, perché la base dati dell'anagrafe tributaria è condivisa con la base dati dell'INPS. Allora, fermo lì un secondo, sentiamo subito Brambilla rispetto a questo nostro ascoltatore dirigente dell'Agenzia delle Entrate che si è occupato direttamente di questo e dice no, sono tutti collegati. Che dice Alberto Brambilla? No, l'anagrafe tributaria è collegata anche perché ormai c'è l'incrocio ormai da tempo con le dichiarazioni dei redditi per quanto riguarda la dichiarazione fiscale e la dichiarazione contributiva, e questa è una cosa. Poi invece manca nel nostro paese un'anagrafe generale, una volta si chiamavano casellari, sulle posizioni dei singoli, e quindi noi non abbiamo quello che all'estero è chiamato il fascicolo personale, dove stanno tutte le posizioni, tutte le attività di welfare che vengono fatte a favore di un soggetto. E peraltro il comune che è collegato all'anagrafe tributaria non comunica, perché è un'altra comunicazione all'INPS quella che questo signore è deceduto. Quindi un conto è l'anagrafe tributaria e un conto invece è l'anagrafe proprio in quanto anagrafe, servizio certo. Anagrafe del comune che deve comunicare il decesso. Allora, speriamo di aver dato qualche altro spunto a voi tutti ascoltatori, perché per capire che i comuni hanno delle ragioni, però abbiamo anche delle ragioni noi cittadini che per il momento restano non troppo prese in considerazione neanche da questa riforma del titolo quinto di cui si sta parlando oggi in Parlamento. Grazie Alberto Brambilla, grazie a voi ascoltatori e a Fenu che ci ha chiamato da Roma. Appuntamento con me a domani e per il resto continuate con Radio 24.